angeli in guardo riosi, corporis misteri sanguinisco e preziosi, quemmi mondi preziosi. Ventri generosi, rex e fu di gentium, nobis natus, ex intacta virgine. Nació